Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, apriamo con una notizia appena arrivata in redazione. L'agenzia Moody's ha declassato Rita Levi-Montalcini perché è giudicata, si dice nella motivazione, troppo instabile, quindi non in grado di dare garanzie sulla sua movimentazione. L'Accademia delle Scienze, che assegna i premi Nobel a Stoccolma, ha già diffuso un comunicato di protesta. Guardate così, ma dovevamo aspettarcelo. Ci ha lasciato senza parole. Esatto, va bene. Allora, i titoli adesso, benvenuti e benvenute a Mebius, e poi incominciamo. La domanda della settimana arriva da Paolo e ci porta al mare. Come mai sui fondali sabbiosi la sabbia non è liscia come ci si aspetterebbe, ma forma dune e avvallamenti? Bosone Summer Festival. La notizia del bosone di Higgs ha riscosso un grande successo, anche tra gli amanti della musica. Vi proponiamo una selezione di brani dedicati alla schiva particella. Italiani pericolosi. Leggende e verità sugli animali di casa nostra. Un libro svela quali sono le specie più feroci e quelle che è meglio conoscere bene. Bleffare o no? Il dilemma del pokerista, secondo uno studio statunitense, risiede in una precisa area del cervello. E siamo, come sempre, in una recente tradizione della nostra trasmissione. Ciao Chiara, ciao Alberto. Ciao. Ciao. Con la domanda. Con la domanda, stavolta andiamo a fondo. Sì, stavolta andiamo proprio sul fondale marino, che tanti fondale. In questo momento ci saranno stati o saranno di ritorno, diciamo. Sì. Posso dire che i nostri ascoltatori sono veramente avanti? E questa volta Paolo da Ancona ci ha inviato direttamente la registrazione della domanda, che probabilmente poi la sentirete, si è registrato mentre guidava o in auto, quindi col suo telefonino ce l'ha mandata direttamente, bella pulita, così noi l'abbiamo messa così in onda. Che si fa. E siamo a posto, quindi sappiatelo, potete mandarci in tutti i formati che volete. Abbiamo i nostri convertitori, mandatecele anche in formato audio, in formato video, come volete. E quali sono i mezzi per raggiungerci? Allora, la mail mebius@radio24.it, ma anche Facebook Mebius Scienza, Twitter Moebius _, cioè trattino basso, online. E ora sentiamo l'audio che ci ha mandato Paolo da Ancona. Volevo chiedere come mai nei fondali sabbiosi la sabbia del fondale non è perfettamente liscia come ci si aspetterebbe, ma crea tutta una serie di piccole dune ed anche delle secche andando progressivamente a largo. C'è una spiegazione scientifica a questo? Grazie mille. E certo che c'è una spiegazione scientifica a tutto questo. Chi ce la dà? Ce la dà Andrea Bergamasco, che è primo ricercatore all'Istituto di Scienze Marine del CNR a Venezia. Buonasera Bergamasco. Buonasera. Buonasera. Allora, andiamo a fondo, come dicevo prima, e ci dica un po' del problema. Allora, il problema è un problema complicato, anche se all'apparenza può sembrare banale, no? Nel senso che nel sistema Terra, che è un sistema rotante, quindi non inerziale, quindi dove ci sono varie forze, come fossimo in una giostra che sta girando essenzialmente, ci sono vari tipi di forze che agiscono e non tutte quante agiscono nello stesso verso, nello stesso modo. Per cui in condizioni assolutamente di calma e tranquillità noi possiamo pensare che quindi questo frangimento di onde possa alzare la sabbia e riabbassarla lì vicino, come quando diciamo i bambini fanno un castello e poi lo lasciano lì e lentamente chiaramente tutto si smussa e tutto va diciamo normalmente a posto. Torna tutto liscio. Esatto, alle piccole scale. Però a varie scale l'azione di queste forze non è né simmetrica né omogenea e quindi ci sono azioni che provocano un accumulo da una qualche parte e una ridistribuzione da qualche altra. Quindi diciamo queste onde che portano fuori, sollevano, trasportano e poi risostengono la sabbia. In condizioni tranquille le ondine che si vedono, che increspano la superficie, sono quelle che poi si vedono sul fondo. Però l'azione di tempeste, di cose che possono alzare, sollevare e portare da una parte all'altra, riflettono le onde a varia scala e quindi si formano diciamo queste barre litoranee con azione di queste correnti, no, che portano e che poi risucchiano, si chiamano proprio rip currents, che a scala poi di 3, 4, 500 metri fanno come dei vortici e quindi ondulano il litorale che può sembrare liscio e quindi provocano degli accumuli da una parte e maggiori erosioni da quell'altra. Ma quindi quello che cambia è l'energia con la quale la sabbia viene sollevata e quindi poi si deposita, esatto, sul fondo. Diciamo, in funzione dell'energia, la sabbia, il fondale, perché la granulometria è varia, abbiamo uno spettro granulometrico, ci sono sabbie più o meno sottili, diciamolo così, no? E quindi poi, in funzione di quanta energia viene messa, noi mettiamo in sospensione una quantità oppure un'altra, che poi andrà a depositarsi in una zona o in un'altra. L'azione, diciamo, progressiva e cumulativa di tutte quante questi processi fanno sì che ci siano zone di accumulo e zone di erosione. Le azioni poi combinate del vento da una parte, ma anche delle correnti poi dall'altra, correnti anche mareali, diciamo, accumulano in modo asimmetrico la sabbia. E ci sono azioni, diciamo, a scale diverse, quindi a scala molto locale, che possono essere queste curvature, diciamo, a scala di 100, 200, 300 metri, scale invece un po' più larghe, che possono essere quelle del qualche chilometro, e la stessa cosa che vediamo grosso modo lungo il litorale, lo si vede anche nella quella che viene sotto il nome di prima, seconda secca, cioè in queste barre, in questi cordoni litoranei che ci sono sepolti sott'acqua. Senta Bergamasco, però in sostanza le onde, che come al solito bisogna sempre chiarirlo, no? Noi le vediamo arrivare verso riva, ma in realtà è l'energia, diciamo, che arriva verso riva, no? Le onde vanno sempre su e giù verticalmente. Praticamente questo andare su e giù delle onde si riproduce anche sul fondo. Poi dopo ci sono vari fenomeni turbolenti che possono cambiare il tutto, però il motivo per cui abbiamo ondine sotto è perché abbiamo ondine sopra e l'energia c'è ovunque nell'acqua. Sì, specialmente sotto riva. C'è una cosa da dire però, che questo è vero finché non si frangono, cioè l'acqua certo. Praticamente va su e giù e resta, tra virgolette, ferma, si muove solo l'onda, si muove solo l'energia fino a quando non frange. Quindi, sì, poi l'acqua corre, tra virgolette, tranquilla, sì. Allora c'è questa propagazione con una energia che si conserva. Nel momento in cui l'onda si frange, si fanno i cavalloni, no? E si vede la schiuma, diciamo, lì l'acqua corre. Questa energia viene rilasciata, viene dissipata. Certo. E questa dissipazione è quella che essenzialmente poi all'origine fa proprio sollevare la sabbia dal fondo, essenzialmente. E sotto succede un po' la stessa cosa, infatti la domanda del nostro Paolo era sottile, nel senso che diceva c'è proprio una differenza tra i fondali che sono vicino alla costa, diciamo vicino alla riva, e quelli che sono un po' più in profondità. Sì, succede in modo analogo, anche se a scale diverse. Noi comunque abbiamo, se io le mostrassi, purtroppo per radio non si può fare, ma se io le mostrassi delle batimetrie ad altissima risoluzione che con il nostro istituto abbiamo preso anche lungo le coste italiane, io potrei mostrarle delle dune, che vengono in gergo chiamate mud waves, come fossero onde di fango, perché sono più limacciose. Sì, diciamo, mud vuol dire fango, sì. Esatto, a 200-300 metri di profondità. Quindi diciamo anche in lontananza, non regolari, dove si vede una forma ondulatoria che assomiglia alle, sì, onde. Però sul fondale dove le onde invece si infrangono, lì sotto probabilmente non abbiamo queste ondine, perché lì l'energia si scompagina. Esatto, dove si frangono l'energia è irruente, diciamo, e quindi abbiamo la risospensione e l'erosione essenzialmente. Mi pare va che bene, ci perfetto. Siamo chiariti. Grazie Bergamasco, domani tutti osserveranno questo fenomeno, sì, nelle spiagge. Saranno consapevoli però. Sì. Grazie, buone vacanze. Buone vacanze Bergamasco. Grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Oh, dunque, dovevamo aspettarcelo, Moody's ha declassato anche Margherita Hack. Cioè le ha tolto la tripla H. Sì. Mamma mia, tremenda. Ha ragione lui. Melanie dice: potete fare una canzone sul bosone di Higgs? Ok ragazzi, è tempo di fare un po' di scienza. Ma chi è Melanie? Allora, non fate domande, non date troppe anticipazioni. Sta per arrivare il bosone Summer Festival. Veramente sono orgogliosissima. Ma prima un attimo di serietà, sì. Perché nei prossimi 5 minuti noi riusciremo a farvi sentire, e sottolineo sentire, la scoperta del bosone di Higgs. Questo è un piano. L'avete sentita? No. No, allora, adesso con calma. Allora, innanzitutto direi di introdurre il fisico, musicista, compositore che ha fatto tutto questo. Di questo sì, ecco. So chi è, Domenico Vicinanza. Buonasera. Buonasera Vicinanza. Lei ha lavorato al CERN per diversi anni come fisico, però è anche musicista. Adesso negli ultimi tempi ci dicono che lei è stato in contatto praticamente con i ricercatori e ha potuto mettere insieme musica e quei tracciamenti, quelle figure con tante righe colorate, no? E sono da lì che viene fuori il bosone. Beh, esattamente, la musica del bosone viene fuori dalla conversione in suono, in uno spartito di quelli che sono esattamente gli stessi dati o gli stessi grafici che... Quelle tracce lì. Esattamente, che i fisici utilizzano tutti i giorni per fare analisi dati, per fare le loro analisi sperimentali. Lei, Vicinanza, è un fisico e diciamo che non è che l'ha fatto per divertimento, ha lavorato insieme all'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania, quindi c'è una cosa serissima, eh? Certo. Ecco. Allora, però, a questo punto, Vicinanza, se lei è d'accordo, farei risentire i miei colleghi e gli ascoltatori che non hanno colto. Allora, rifacciamo sentire questo passaggio di piano e fate attenzione al secondo 3,5 più o meno. Aspetta che guardo. Prego. Via. Ecco, sentito? Quella nota acute. Esatto, quella nota acuta leggermente fuori dal coro. Ecco, fuori. Ve la faccio sentire in moviola. Adesso l'avete sentita? Di nuovo. Vicinanza, spieghi ai miei colleghi insomma che cos'è questo. Assolutamente, certo. Ci sono esattamente tre note che sono due ottave sopra la maggior parte delle note che sono suonate dalla melodia. Cioè, come ha detto giustamente lei, tre note fuori dal coro, tre note che sono decisamente più acute di tutto il resto che viene suonato durante il brano. Quelle tre note sono la sonificazione, ovvero sono la traduzione in qualcosa di udibile del picco che i ricercatori il 4 luglio hanno mostrato come evidenza della scoperta del bosone di Higgs. Quindi è un modo per ascoltare il risultato sperimentale. E devo dire che sapendolo, insomma, uno lo sente meglio di quanto riuscisse a vederlo invece nei grafici. In un certo senso sì, è vero. Però quali sono gli elementi che avete usato? Cioè, come fate a tradurre in una nota, quindi con una certa frequenza, una traccia? Certo, sono assolutamente d'accordo con lei. Innanzitutto, ascoltare grafici in alcuni casi rende molto più evidenti certe anomalie, perché l'orecchio è abituato in modo naturale a scoprire, a riconoscere melodie anomale, note anomale. Siamo tutti quanti bravi, ad esempio, ad accorgerci di una nota stonata in una canzone, mentre invece è molto più complicato riuscire a scoprire un puntino sbagliato in un grafico, perché l'orecchio è molto più allenato dell'occhio a riconoscere andamenti e riconoscere strutture. Per quanto riguarda la traduzione invece dei dati sperimentali in melodie, quello che abbiamo fatto è stato semplicemente utilizzare due principi. Il primo è quello di associare valori uguali a numeri uguali la stessa nota. Ogni volta che magari l'energia vale un certo valore, la nota che la rappresenta è esattamente la stessa sul pentagramma. La seconda regola è quella di, questa si chiama tecnicamente covarianza, è praticamente una legge che permette di associare a valori crescenti dei numeri, dei dati, note ad altezza crescente, quindi note sempre più acute quando i dati crescono, note sempre più gravi quando i dati decrescono. Se una nota fa un salto, la melodia farà un salto in modo proporzionale. Se i dati salgono e scendono, aumentano e diminuiscono in modo regolare, periodico si dice, la melodia avrà esattamente la stessa regolarità, la stessa periodicità. Quindi in qualche modo, ascoltando la melodia, si riescono ad ascoltare esattamente le stesse proprietà, le stesse caratteristiche che i dati sperimentali forniscono quando li guardiamo su uno schermo oppure stampati su un foglio. E siccome lei è fisico e anche compositore, però non si è fatto mancare nulla, cioè ha messo su un'orchestrina, no? Composta da, mi dica lei, piano, basso, xilofono, contrabbasso, xilofono, marimba e percussioni. La marimba, ci spieghi che cos'è? Non è un gusto di gelato, Chiara. La marimba è una specie di xilofono, è uno strumento fatto con delle barrette di legno duro percosse con dei martelletti, simile a uno xilofono oppure a un vibrafono, ed è quello che ha un suono caldo, le note gravi insieme al pianoforte nel brano orchestrato. E allora sentiamolo. Anche qui emerge il bosone di Higgs. Al secondo 3,5? pochino dopo perché c'è l'introduzione del contrabbasso, ecco, quindi non appena comincia a suonare il pianoforte a secondo tre che strumento fa il bosone? Il bosone è suonato dal pianoforte, dopodiché il motivo viene ripetuto da pianoforte e marimba, e di nuovo il pianoforte è quello che suona il bosone. La terza ripetizione è pianoforte, marimba, xilofono, e di nuovo il pianoforte è quello che suona le note più acute, per cui quello che suona il bosone. Sì, perché quello che sentiremo è proprio una composizione, quindi non sentiremo più una cosa breve come prima, ma delle ripetizioni. Quindi quando attacca, diciamo, il primo piano, da lì contate 3, 5 e lì ci siamo. Quindi c'è una breve anche introduzione. Va bene, grazie Vicinanza. Intanto noi ascoltiamo la sua opera. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Quello più acuto. Questo. Molto bello. Molto bello. C'è da dire che qua c'è un lavoro anche proprio di composizione, non è solo fisica. Perché ecco, viene fuori il musicista. Tutti gli arrangiamenti, che c'è in Alberto. Secondo me, non c'erano sui grafici di Fabiola Gianotti. No, infatti, è vero. E questo ci porta finalmente. Non vedevo l'ora, al Bosone Summer Festival. Scusate, ho preso l'iniziativa, l'ho chiamato così perché cosa abbiamo fatto in redazione in questa settimana mentre tutti erano in vacanza? Abbiamo cercato su YouTube come, diciamo, la notizia fosse stata appresa, la notizia della scoperta del Bosone fosse stata presa dai musicisti della rete di YouTube. Ecco, devo dire che si trova di tutto, ma anche cose molto pregiate. Dobbiamo ringraziare anche un nostro redattore Claudio Dutto che ci ha aiutato a tradurre i testi. Tutte. Esatto. E quindi adesso, insomma, vi proporrei, se siete d'accordo, una selezione di quello che ho trovato in rete. Va bene. Allora, direi di partire con un rap dal titolo X Bosong, che appunto gioca sul fatto bosone e song, che significa canzone. Sì, tra l'altro Bosong è anche la canzone del bo, cioè ma che cos'è questo bosone? Insomma. Ecco, esatto, che però, diciamo, dopo luglio se ne è saputo di più. L'artista che lo esegue è Andrew Wang. Melanie says, can you make a song about the Higgs boson? Okay, children, it's time to drop some science. Can you detect when you're smashing protons? That doesn't affect the path of any photons. Use mass to everything, like your mom. It's the Higgs boson, it's the Higgs boson. Higgs, Higgs, Higgs boson, boson, boson. Higgs, Higgs, Higgs boson, boson. Ecco, vabbè, avrete sicuramente intuito il testo. Allora, qui cosa dice? Quello che dicevi tu all'inizio. Potete fare una canzone sul bosone di Higgs? Ok, ragazzi, è tempo di fare un po' di scienza. Cosa si può rilevare quando si scontrano i protoni? Cosa non pregiudica il cammino dei fotoni? E questa è la parte più bella, eh? Ciò che dà la massa a tutto, come te, mamma, sì, è il bosone di Higgs. Questa è la canzone del bosone di Higgs. E poi qua, come sentite, parte il tripudio di... Eccolo qua. Il ritornello, bosone di Higgs, bosone di Higgs, bosone di Higgs. Dunque, sul rap siete soddisfatti? Completamente. Soddisfattissimi. Ma voi lo so che preferite il rock e quindi sì, vi accontento classico. Subito. Allora, ad eseguire il seguente brano, Tyrannosaurus Rex, una band ovviamente pesante. Molto famosa, molto pesante. Tra l'altro. Il titolo è? Il titolo è The God Particle, The Higgs Boson Song. Andiamo. Do you believe in the boson called Higgs, or is how you see more like an atheist of science? Are you trying hard to understand the words of guys like Stephen Hawking, Richard Dawkins and Deepak Chopra? Yeah. Vabbè, qua, yeah, insomma, lo sentite, no? Relax. Andiamo sul rock pesante. Allora, tu credi nel bosone chiamato Higgs? O la vedi più come un ateo della scienza? E trovi difficile capire le parole di quei ragazzi come Stephen Hawking, Richard Dawkins. Sì, sì, siamo astrusi. Noi non riusciamo ad allacciarci le scarpe. Sì, sì, ma che cavolo. Che fottuta. What the fuck, ecco. Scusate, non so se avete riconosciuto la melodia. No. Risentitela. That you can never figure out. But we're the scientists with clout. Our future funds won't be in doubt. That's what this whole thing is about. I'd like to eat some sauerkraut. Mi sfugge, che cos'è? Sì, ma aspetta, questo... questo era Finardi. Esatto, era questa Finardi. È la stessa melodia. In realtà, vabbè, in Italia è stata tradotta da Finardi come Se Dio fosse uno di noi. Ma in realtà l'originale è di Joan Osborne, What If God Was One of Us. Quindi Finardi l'ha tradotto giusto. Finardi l'ha tradotto giusto. Tradotto bella giusto. Questa, bella, mi è piaciuta. Bene. Ecco. Bene. Bosone Summer Festival. Yeah. Perché oggi è sabato. Sì, ma è anche domenica se andiamo in replica. Vero. Vedo che sta per arrivare Paul Poltz. Allora, Paul Poltz, che ovviamente fa anche lui la X Boson Song. Continuiamo con il nostro Bosone Summer Festival. E questa volta stacchiamo gli amplificatori e andiamo unplugged. Quindi sentiamola. The Higgs boson particle is ever elusive and shy. They've been searching for it over 30 years. It could make a grown scientist cry. Now once scientists have discovered why mass exists, maybe they can start probing beyond the standard model. Then maybe we can discover the fifth dimension and start. E qui sentite insomma le parole chiave. La particella bosone di Higgs è tutt'altro che evidente. La stanno cercando ovunque, sono 30 anni che fa piangere gli scienziati. Ora gli scienziati hanno scoperto perché la massa esiste, possono cominciare i problemi sul modello standard, poi possono cominciare a pensare come viaggiare avanti, indietro, avanti, nel tempo. Beh, insomma, qua va avanti all'infinito. Immaginala a Woodstock. Sì, ecco, proprio un successone. Va bene, chiedo a Matteo, il nostro regista, di sfumarla. Paul perché Ponce. Adesso andiamo sui pezzi forti. Poteva mancare un coro gospel, secondo voi? No, infatti, no. Me lo aspettavo. E soprattutto, poteva mancare un coro gospel dei membri del CERN? Accidenti, qui abbiamo una rarità, una cosa eccezionale. Ma l'hanno composto adesso? L'hanno composto adesso, infatti sentiamolo, The Particle Physics Song. Some particle physicists were standing one day and a hadron collider in CERN. Sembra più una canzone di Natale però, eh? Beh, è un coro gospel, Federico, insomma, se non te ne intendi. Allora, possiamo iniziare a tradurre, poi farei un rialzo sul ritornello meraviglioso XX, glorioso X. Sì. Comunque, iniziamo. Alcuni fisici delle particelle un giorno se ne stavano all'Hadron Collider, che è appunto l'LHC del CERN, guardavano i bottoni e i display, pensavano ai progetti che dovevano aggiornare, sognavano nuovi papers, gli articoli scientifici, nuovi premi, nuove opportunità di lavoro, uno spazio a 13 dimensioni e più. Quei fisici non erano indovini e le risposte che davano avevano bisogno che fossero sicure. E qui c'è il ritornello, Higgs, glorioso Higgs. La teoria diceva loro che è così fondamentale, non casuale. Loro provano un forte sentimento quando pensano all'Higgs. Questo è stato registrato nella chiesa del CERN, secondo me. Ma a me viene il dubbio che la particella l'avessero scoperta prima e che hanno aspettato per essere pronti col coro. Ah, forse non sì, è escluso vabbè. Che loro tengano più al coro, tu dici. Hanno passato 30 anni a prepararsi col coro. Questi magari, li vediamo a Sanremo. O magari la canzone era prevista dal modello standard. Non è escluso. Allora, sentiamo l'ultimo ritornello. Inventing, designing, experiments new to answer the questions that seem. Arriva! All together! Sai mi viene a dire, loro odiano questa definizione, i fisici, particelle di Dio, però qui hanno costruito veramente hanno fatto su una costruzione, una cosa da cappella, da va bene, altare. Sono contenta che vi state divertendo, che abbiamo preparato questo bel Summer Festival. Allora, in conclusione, poteva secondo voi mancare la canzone d'amore con tastiera e pianolazza, modello piano bar? È il dopo festival praticamente, ecco. Arrivano i Todd Chap. Todd Chap, che è un simpaticissimo musicista. Sembra un po' il milanese. Sì. Ecco. Però va bene. Allora, canzone d'amore al bosone di Higgs. Prego. A love song to Higgs boson. Ti amo, bosone di Higgs. Tu sei la ragione per cui la vita va avanti. Senza di te il mio cuore andrebbe in rovina. You're the reason life goes on. Without you my heart would shatter. My love for you is the genuine article, even though you're just a subatomic particle. In my universe, you're all that matters. Qui lui diceva: il mio amore per te si è generato quando ho ricordato che solo una particella subatomica ha dato origine al mio universo, e quella materia sei tu. Ti abbiamo scoperto nel quarto giorno di luglio, quando un test scientifico ha capito perché. Tu mi hai rapito il mio cuore, tu hai conquistato il mio mondo prendendotene una parte. Ti amo, bosone di Higgs. Ah, che meraviglia. Che trasporto. Oh, non è che questi sono tutti fisici, attenzione, no. Cioè, no. Questi la sono gente della gente musica più varia. Che, Allora, ovviamente tutto troverete sul nostro sito. Faremo un bel articolone con tutti i testi, tutti i video. Potete sbizzarrirvi perché ce ne sono anche altri. Abbiamo trovato gruppi musicali russi che si chiamano Bosom X. Abbiamo trovato della roba country. Però, insomma, adesso il tempo a nostra disposizione purtroppo è quasi terminato. E quindi, insomma, vi rimandiamo sul sito www.mebiusonline.eu. Vi siete divertiti? Moltissimo. Sì. E ringraziamo ancora Claudio in redazione, Claudio Dutto. Claudio Dutto. Claudio. Però qui non c'è l'anaconda, quello lungo 20 metri che attorciglia. No, niente boar. Boa, o com'era quello anaconda? Di. Ah, no, non l'ho mai visto. Però mi era venuto in mente quello di Kill Bill. Un villaggio, lo strangola. Ah, davvero? Qui non c'è. No, qui non c'è. Anzi, non lo so. Non lo so. Però a questo proposito segnaliamo un bel libro con un sacco di tavole anche, di disegni molto interessante. Ti dico il titolo: Italiani pericolosi. Che non sono i tanti che conosciamo umani, ma bensì gli animali. Quindi il sottotitolo è Leggende e verità sugli animali di casa nostra. È appena uscito nelle librerie e qui con noi questa sera c'è l'autore Marco Di Domenico. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Tu sei naturalista, zoologo, insomma li conosci molto bene gli animali, e tanto da raccontarci appunto quanto siano pericolosi quegli italiani, punto di domanda. Sì, certamente ci sono anche in Italia animali pericolosi, non raggiungiamo i livelli di pericolosità di animali esotici, di un altro livello assoluto di pericolosità, quindi veramente mortali, insomma assolutamente da evitare, però è bene sapere che anche in Italia ci sono molte specie di animali pericolosi, in generale perché ci sono molte specie animali. L'Italia è il paese a più alta biodiversità in Europa. Ci sono più di 50.000 specie di animali nel nostro paese, molte sono endemiche dell'Italia. E questa è una bellissima notizia, dovremmo far di tutto notizia, per conservarle. Un certo livello di pericolosità è insito nella natura, è chiaro che alcune di queste specie possono essere pericolose per l'uomo. Ecco. E io ho tirato fuori un po' di numeri dal tuo libro. Sì. Viene fuori che abbiamo circa 1.400 specie di ragni. Voi l'avreste detto? Io no, sinceramente no, non troppo. Me l'aspettavo. Siete sicuri? Sono troppi. Sì, sono tanti. Fa abbastanza impressione, ma rispetto appunto alle 50.000 specie di animali in totale, anche i ragni fanno la loro parte. Se vi dico gli insetti che sono 20.000 per dire, insomma, quindi. Ecco. Gli insetti sono 20.000 e 7.300 sono solo api e vespe. Esatto. Quali sono i più pericolosi? Marco. Allora, bisogna prima chiarire bene cosa vuol dire pericoloso. Sì, hai ragione. La pericolosità di un animale dipende anche dalle occasioni che noi abbiamo di incontrarli e quindi eventualmente di avere uno svantaggio dall'incontro. Quindi ci sono anche animali molto pericolosi ma che non incontreremo mai nella nostra vita, animali relativamente meno pericolosi ma che per la loro diffusione diventano pericolosi. Sicuramente le api e le vespe di cui si parlava un attimo fa, probabilmente sono gli animali di cui bisogna avere un po' più di timore, ecco, perché sono ovunque, sono tantissimi e pungono. Le api possono essere pericolose perché le api, come le vespe, possono, il loro veleno può scatenare una reazione allergica, forte. Anche gravi, shock anafilattici, e quindi diciamo, se per la gran parte delle persone una puntura di ape non va oltre un dolore intenso locale che poi passa in poche ore, per altre può invece dare origine a reazioni sistemiche anche molto gravi che possono in alcuni casi condurre alla morte. Insomma, è un po' difficile capire dalle statistiche, però probabilmente ogni anno tra le 5 e le 10 persone muoiono a causa di punture di api o di vespe in Italia. Tu fai, Marco, un'introduzione molto giusta nel libro, in cui ridimensioni un po' il tutto, perché qui parliamo di 5-10 vittime all'anno in confronto a quelle che sono, diciamo, invece le vittime purtroppo per altre situazioni che procuriamo invece noi esseri umani. Diciamo che possiamo dire che noi italiani ad animali siamo sereni, anzi non dovremmo per niente temerli. Esatto. Dobbiamo conoscerli e ovviamente anche evitare di assumere comportamenti che possono aumentare la pericolosità di un animale selvatico, insomma. Però se poi ragioniamo un po' sui numeri, di fronte alle 5-10 persone uccise dalle vespe ce ne sono tra le 5.000 e le 8.000 che muoiono per incidenti domestici ogni anno. Sì, e allora bisogna un po' ragionare su quanto sia sensato avere paura di un animale, mentre invece quanto sia sensato considerare normale uno stile di vita che ci porta a vivere quotidianamente in situazioni di reale pericolo che però diciamo non vengono percepite come tale. La chiave del tuo libro è proprio un po' questa. Parlando con le persone non considerano pericoloso andare a 150 all'ora sull'autostrada, mentre magari hanno il terrore di fare una passeggiata in campagna perché hanno paura delle vipere. Sì. Questa schizofrenia bisognerebbe un po' parlarne per ridare un po' di giustizia e di senso alle cose. Quindi va bene conoscere gli animali, sapere che esistono animali pericolosi. Se uno incontra una vipera non la deve prendere in mano, quello è... Sì, certo, come non possiamo mettere la mano nell'acqua bollente. La mano nell'acqua bollente o buttarci dalla finestra, insomma queste sono cose che dovrebbero far parte del senso comune. Prima hai detto una roba strana che adesso a me viene da chiederla Chiara, ma tu riesci a capire qual era un animale in Italia molto pericoloso ma che non incontriamo mai? Lui ha detto che ce n'è un animale che non incontriamo mai, ma quale può essere? Lo sto chiedendo anche agli ascoltatori, io non credo che ci venga in mente. C'è un animale, diciamo, molto pericoloso come può essere una vespa. Ma forse ho capito a chi ti che non incontriamo mai. Lo chiedete a me? O... Adesso sì, abbiamo lasciato un po' di tempo a chi ci ascolta. In realtà ce ne sono moltissimi, penso per esempio a molti animali marini che sono fortemente tossici, alcune meduse per esempio o anemoni di mare oppure dei vermi marini che hanno delle tossine potentissime che però magari vivono a 400 metri di profondità e qui i rapporti con l'uomo sono praticamente nulli. Oppure sono talmente rari che gli incontri con le persone sono così sporadici da rendere la loro pericolosità solo potenziale e non reale, insomma. Pensavo che Federico facesse riferimento agli squali, che magari molti non sanno che ci sono. Sempre rimanendo nel mare, gli squali sono sicuramente tra quelli. Abbiamo 40 specie di squali nel Mediterraneo, molte delle quali sono specie che altrove nel mondo uccidono diverse persone ogni anno. E invece... Avere paura di uno squalo quando si fa il bagno, secondo me, rientra un po' in... Un filo eccessivo. Un po' una nevrosi. Sì, di cui parlavamo prima. E Marco, in chiusura, e anche in chiusura del tuo libro tu dedichi un intero capitolo, secondo me ha ragione, al lupo mannaro, che poi tanto mannaro non è, via. Sì, certo, il lupo è sempre stato nella cultura umana il simbolo della natura maligna e ostile, quindi il lupo è sempre un protagonista negativo nelle favole, nei racconti, nelle filastrocche. C'è il lupo mannaro, c'è l'orco, è sempre una specie di mostro che ci minaccia. In realtà il lupo è un animale splendido, meraviglioso, importantissimo dal punto di vista ecologico, culturale e tutto quello che possiamo dire, però è un grande predatore. In passato ha sicuramente avuto anche comportamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, quando l'Europa era un mondo completamente diverso da quello che è oggi. È un animale che comunque provoca dei danni agli allevatori perché può uccidere cavalli e pecore, ma comunque è un predatore che noi dobbiamo difendere, diciamo, con i denti. E chi fa una passeggiata in montagna e vede un lupo può solo gioire di questa, di averlo incontrato, magari averlo incontrato, e ritenersi un grande privilegiato, un grande fortunato, assolutamente non temerlo, perché non, sì, a meno che non cerchi di tirargli le orecchie, lui scappa, a meno che non cerchi di aggredirlo, sparargli, tirargli sassi o mettergli il sale sulla coda, come si diceva una volta. Però a quel punto non è colpa del lupo, ma è la colpa, come al solito, la nostra. Va bene, grazie mille Marco Di Domenico. Ricordiamo doverosamente il titolo del libro, Italiani pericolosi, leggende e verità sugli animali di casa nostra, edizione Bollati Boringhieri. Buon grazie lavoro. Io e Chiara Alberto abbiamo appena finito di parlare di animali pericolosi, ma ci sono anche certi giochi pericolosi. Giochi pericolosi, ma parliamo di giochi comunque da tavolo. Da tavolo. Il poker. Il poker. Attorno al tavolo del poker giocano menti, esseri umani con un cervello. Questi esseri umani devono decidere a un certo punto se ingannare o meno l'avversario, se bluffare. Il bluff nel poker. E la notizia è appunto che sembra che ci sia una precisa area del cervello deputata a questa funzione, cioè analizzare quello che sta facendo l'avversario e capire se ingannarlo o meno. Per parlare di ciò abbiamo qui questa sera Giorgio Coricelli. Buonasera Coricelli. Buonasera. Ricercatore del CIMEC, il Centro Interdipartimentale Mente e Cervello dell'Università di Trento. Lei lì però insegna anche neuroeconomia. Sì, infatti, sono un economista che da alcuni anni mi interessa di neuroscienze, quindi economia e neuroscienze. E magari dopo un po' ne parliamo, sì, di questo. Anche se in realtà l'economia qua col poker non è il legame che volevamo fare, ecco. Oddio, di bluff nell'economia. Ce ne sono parecchi. E voi neuroeconomisti ne avete tirati fuori anche di clamorosi, però... Direi, torniamo al tavolo. Intanto, scusa Alberto, io vorrei chiedere a lui, ma com'è che si fanno queste ricerche? Cioè, ci sono quattro che giocano e hanno tutti quei filetti in testa per ricavare le immagini che si generano nel cervello, si fa così? Questo esperimento essenzialmente è un esperimento di risonanza magnetica funzionale, quindi c'è un partecipante, un volontario, che viene fatto sedere all'interno della macchina, e la macchina registra due aspetti fondamentali del cervello: una, la struttura, quindi ognuno ha un cervello che è diverso dagli altri, e la seconda, che è l'aspetto funzionale, appunto un segnale che registra l'attività neuronale durante un compito sperimentale. Questo è essenzialmente quello che hanno fatto. L'attività neuronale cosa vuol dire? Che si vede che cosa? Con la risonanza magnetica, questa, diciamo, è una approssimazione dell'attività neuronale, cioè che deriva da una risposta, si chiama risposta emodinamica, quindi essenzialmente dal cambiamento dell'afflusso di sangue. Tra varie aree cerebrali essenzialmente, sì, certo. E quindi registra una dinamica, quindi come cambia questa variabile e nel tempo durante diversi una certa prestazione. Ecco, ma esatto. Quello che le chiedevamo, però, questo qui dentro la macchina, io ne ho vista una, anzi una volta mi sono messo anche un caschetto in testa, no? Ci sono diversi terminali, sensori, però cosa faceva? Giocava a poker con qualcun altro fuori? Si giocava contro tanti altri. Sullo schermo veniva proiettato o una foto di una persona, l'opponente, diciamo, sì, e oppure un computer. Quindi il contrasto fondamentale era interagire, giocare o contro un'altra persona, oppure una macchina, contro un computer, una macchina. E lì è il contrasto, diciamo, fondamentale. Una volta vista appunto o l'immagine della persona o della macchina, c'è l'informazione su che tipo di carta ha in mano. Sono due tipi di carta, una carta bassa o una carta alta. Sì. E lì avviene la decisione del partecipante. Se la carta è alta, conviene sempre che giochi, perché praticamente se l'altro segue o rilancia, come proprio nel poker, allora con la carta alta si vince sempre. Con la carta bassa, dove interviene il bluff, dove il partecipante può bluffare e non uscire dal gioco, dal tavolo. E far credere di avere una carta alta. Avere una carta alta. Un bluff. L'altro, se vede, poi il partecipante perde. Se l'altro invece esce, pensando che il partecipante abbia una carta alta, invece il partecipante vince, quindi c'è il bluff. Certo. E in questo esperimento di cui stiamo parlando hanno verificato che quando si bluffa, hanno verificato che c'è un'area specifica del cervello, che è la giunzione temporoparietale, che è un'area molto interessante al cervello, che predice il momento in cui il partecipante decide che cosa fare contro l'opponente, predice la scelta, quindi predice se il partecipante con una carta bassa farà un bluff o meno, giocherà oppure uscirà dal gioco. Cioè, se si attiva quell'area, possiamo dire che il partecipante sta per bluffare. bleffare. Essenzialmente che cosa accade però? Che questo avviene come risposta alla fotografia, quindi al fatto che l'opponente è una persona. E il significato è questo, che essenzialmente quest'area in qualche modo estrae informazioni importanti da una semplice foto, certo. La persona per esempio rilancerà o uscirà dal gioco, e questo è fondamentale perché farà un bluff se penso che di convincere l'altro in qualche modo. Cioè, se è vera la cosa, vedo dei tratti, dei segnali, esatto, in quello che mi sta di fronte, me la sento di bluffare o no. Esatto, capisco, esatto, se ci può cascare. E questo è il risultato fondamentale, quindi capire se l'altro ci possa cascare o meno. Questo è quello che hanno ottenuto fondamentalmente. Quindi con un'analisi molto avanzata del segnale, diciamo, neuronale, riescono a fare una previsione, una predizione estremamente corretta di quello che sarà per la scelta. Senta, però vorremmo allargare un po', perché qua Alberto ci interrogavamo, stando in una redazione di scienza, quello che succede è che arrivano una quantità di notizie impressionanti e moltissime negli ultimi anni arrivano dalle neuroscienze. Allora io e Alberto abbiamo fatto un conto, le notizie che riguardano aree del cervello che si attivano in relazione a qualche funzionamento, mi pare che fossimo arrivati ad un cervello di qualcosa come 8-10 metri cubi, insomma. Sì, una testa gigantesca. Una testa gigantesca, perché si hanno attivazioni, cioè i neuroscienziati ci dicono che si hanno attivazioni per un'infinità anche di cose estremamente specifiche come questa, giocare a poker e bluffare. Beh, ma allora mi scusi, sono tutte sovrapposte queste aree qui, come facciamo ad avere un cervello che ha un'area per il bluff al poker che è diversa per un'area magari del bluff a scala 40, che credo che non ci sia perché è un gioco. Certo, cioè, il cervello non si è evoluto per giocare al poker. Questo, no, ecco, cioè, però essenzialmente sono diverse interpretazioni. Una è che comunque non c'è un'area che fa una sola cosa, quindi le funzioni possono essere comunque varie. Quello che però si osserva è che sono delle aree che riescono ad avere delle funzioni che sono diverse ma collegate, connesse comunque. Nello specifico, per esempio, di quest'area, è un'area molto importante perché è un'area che sta tra due strutture cerebrali ben definite, e una che è la corteccia parietale, per esempio, è un'area che ha molto a che fare con l'attenzione. Quindi un aspetto che poi collega l'attenzione alla competenza sociale è il fatto che in contesti sociali di maggiore rilievo, come la necessità di carpire segnali, informazioni, ad esempio da una fotografia o dallo sguardo a vedere una persona, e lì c'è il bisogno di concentrare l'attenzione, okay, in quel momento sul target, e essenzialmente questo è quello che avviene, cioè un'area che comunque in altri contesti modulerebbe o comunque risponderebbe a aspetti attenzionali, in questo contesto fa dal punto di vista di processo, di meccanismo, un meccanismo simile. Però questo non vuol dire che in effetti, cioè, ci dice qualcosa su cosa avviene in quel momento e anche come viene, diciamo, strutturata in qualche modo la decisione dell'individuo. Questo da un lato. Dall'altro ci sono anche delle teorie che stanno sviluppando, come dire, sono delle aree che avevano per esempio delle funzioni molto di base, pensiamo all'insula per esempio, che è un'area, l'insula anteriore, è un'area che ha dei neuroni molto particolari, si chiama von Economov neurons, e qui sono dei neuroni che dicono all'organismo se quello che abbiamo di fronte è una cosa commestibile o meno. Quindi pensate quanto è importante dal punto di vista adattivo un neurone del genere. Però vediamo oggi che testando con la neuroimmagine o comunque anche con altre strumentazioni, altre metodologie, che la stessa area si attiva, quindi ha come funzione per esempio la risposta al rischio, ok, il rischio anche economico, il rischio finanziario e così via. È quindi difficile dire metterli in qualche modo, però. No, se è commestibile un certo prodotto, esatto, cioè finanziario. È chiamato il riciclo delle aree, cioè un'area che nasce per risolvere delle funzioni estremamente di base, poi viene riciclata nell'evoluzione, no? Per risolvere poi situazioni molto più complesse che possono essere la scelta finanziaria. Ma quindi il cervello non è come gli organi interni, diciamo, che ognuno è deputato a fare una certa cosa, non un confine fisico ben preciso. Diciamo, esatto, che c'è anche la struttura del cervello che è appunto la plasticità, il cervello può apprendere, quindi anche le aree possono in qualche modo cambiare la loro struttura intrinseca, e quindi quello che si osserva è che c'è una regolarità, diciamo, questo è un po' la bellezza, anche il fascino dello studio del cervello, c'è in qualche modo una sovrapposizione, però c'è spesso una sovrapposizione logica, c'è un'analogia, e anche questi aspetti di riciclo secondo me sono molto. Vorrei essere sicuro che abbiamo capito, lei dice l'area che è predisposta a, come dire, valutare la presenza di cibo è talmente importante nella nostra storia come animali che